Ok, wow, wow. Sei. Sa più di una mano gold, gold, gold, zero. C'è fuori. Ma come fai a paragonare marijuana ed eroina? Vedi, vedi Hiroshima, vedi, vedi l'Iraq, vedi l'Iran, vedi la Cina. Maledico Mosè, quando è nostro Monte Sinai. Non credo nella chiesa come istituzione, cade piscia volontà sopra la tua costituzione. Triste conclusione, volutasi nel tempo, per ogni passo avanti ne facciamo indietro 100. Andò a fanculo il Parlamento, da sinistra e destra, per colmare la fame del mondo non basta una fiesta. Stupidata di beneficenza, per fare chi ha e dare a chi senza. Sposta faccenda, nostra faccenda, inchiesta rappresenta, inchiesta su inchiesta, una felizia, dici immondizia, si ridestringe la cinghia, non si capisce una minchia. In un mondo come questo, ma l'opposto, qualcosa di diverso, perché questo non lo reggo, troppe regole del piazzo, troppe leggi su misura. La volta è l'ordine del giorno, 16 anni in volto, ma qui nessun aiuto e ma qui nessun conforto, solo contro il mondo come sempre. Ed in un mondo come questo, ma l'opposto, qualcosa di diverso, perché questo non lo reggo, troppe regole del piazzo, troppe leggi su misura. Ed in un mondo come questo non l'opposto, qualcosa di diverso, perché questo non lo reggo, troppe regole del cazzo, troppe leggi su misura. Questo è il mondo dove è facile perdersi, impara l'esperienza e trasforma tutto in sintesi. Leggi che ti salvano, leggi che condannano, leggi che ti toccano nel corpo, nella mente e nell'animo. Su, fatti coraggio che c'è sempre la speranza di poter vedere legale ogni tipo di sostanza. Sì, gente che si ammazza, gente che scorrazza, gente coi milioni che fa una vita pazza. Foglie di Baida, figli di Al-Qaeda, delitto di cogne nella fottuta baita. Figlio di Dio, resti di Satanas, pena di morte e dati tanti a Panama. Vivo per restare e non mettermi da parte. Sono io che al destino ho mescolato le carte. Finte comparsate della gente inutile. Vedo più guerra adesso che i tempi delle punte. Ed in un mondo come questo, ma l'opposto, qualcosa di diverso, perché questo non lo reggo, troppe regole del cazzo, troppe leggi su misura. Ed in un mondo come questo, ma l'opposto, qualcosa di diverso, perché questo non lo reggo, troppe regole del cazzo, troppe leggi su misura. Ed in un mondo diverso, qualcosa di nuovo rispetto all'eccesso, dove non si è mai solo. Datemi bacio amore come nei 60 hippie. Troppe correzioni sulla carta dei diritti. Voglio libertà ma non sono un anarcoide. Mi chiamano drogato ed io cannabinoide. Non sono un alieno, non sono un meganoide. Vorresti comandarmi ma non sono un androide. Solo rabbia e delusione negli occhi di un ragazzo. Dicevi ci sta bene, invece era tutto falso. Mi passo a contatto, saltato. Dicevi il mondo è libero invece non sai circondato. Colpo subito, incassato e scordato. Questo mondo non m'accetta, strano è lui che m'ha creato. Di matteo bastardo, caparbio e testardo. Il mio pensiero espande, le mie idee non moriranno. Ed in un mondo come questo, ma l'opposto, qualcosa di diverso, perché questo non lo reggo, troppe regole del cazzo, troppe leggi su misura. Ed in un mondo come questo, ma l'opposto, qualcosa di diverso, perché questo non lo reggo, troppe regole del cazzo, troppe leggi su misura. Il carrozzone va avanti da sé, con le regine, i suoi fanti, i suoi re. Ridi buffone per scaramanzia, così la morte va via.